Un bentornati a Rock Legends su Radio RCS l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire al nostro ospite Ale dei Maya Mountains. Ciao a tutti, le frequenze di Radio RCS sono 98.6 per la bassa veronese e le zone della Lessinia e 101.5 per Verona città e il resto della provincia di Verona. Radio RCS si può ascoltare anche in streaming dal sito www.radiorcs.it. Per rimanere in tema di rock pesante e ricollegarci con lo stoner rock dei giorni nostri, ora ascoltiamo alcuni tra i progenitori di questo genere. Nel 1972 esce il disco degli Hawkwind, Do Re Mi Fa Sol La Ti Do. I maestri dello space rock duro annoveravano, oltre al cantante Robert Calvert, anche il grande Lemmy. Da questo album abbiamo ascoltato Urban Gorilla. A Alessandro la parola dopo l'ascolto del pezzo. Beh, gli Hawkwind sono una sorta di enciclopedia della musica, un gruppo vastissimo, certo, con mille cambiamenti di formazioni e dischi da paura. Fra l'altro hai scelto un bellissimo pezzo di un bellissimo periodo gli Hawkwind, secondo me, e tuttora gli Hawkwind hanno lasciato dei semi che continuano a proliferare nello stoner soprattutto, direi. Certo. Suonate assieme da 5 anni, in questo periodo quali sono state le più importanti esperienze live che avete fatto? Beh, indubbiamente abbiamo suonato con degli ottimi artisti come Brent Bjork and The Bros, che annovera Brent Bjork, il grandissimo batterista di Caius, come i Track Fighters, come un ottimo gruppo che sono i Gengis Khan, che vengono da San Francisco e fanno un gran rock 70s. Ma soprattutto abbiamo fatto un sacco di date operaie con gruppi di amici, grandi gruppi della scena italiana come i Forti Mustaci, gli Underdogs, gli OJM, diciamo che ci hanno portato in giro per il paese, ecco, bello, e siamo bello. Stati felici. Anche gli Stati Uniti hanno avuto la loro corrente hard rock negli anni 70, ne sono una testimonianza i Blue Oyster Cult, una band che resiste ancora ai giorni nostri. Ritorniamo con loro al disco Tyranny in Mutation del 1971 con il brano Seven Screaming Disbusters. Just refrain from dancing out of mirrors. Le formazioni hard rock americane nella loro musica hanno sempre qualcosa di diverso da quelle inglesi. Cosa ti è piaciuto del pezzo? Beh, diciamo, i Blue Oyster Cult in questo periodo avevano delle influenze abbastanza, definirei quasi prog, variazioni molto belle, e sicuramente la musica inglese ha uno studio più, secondo me, particolare delle sonorità durante gli anni 70, meno semplice e più accurato, definirei. Mi piace di più, come mio gusto personale, diciamo. Bene. Nella vostra biografia si possono contare molti concerti assieme ad altre formazioni. Ci sono stati sbocchi di collaborazioni future, oppure con qualcuno la cosa è finita lì? No, beh, sicuramente con alcuni la cosa è finita lì, ma con altri ci sono state delle buone collaborazioni per fare varie altre date, o anche delle date distanti insieme, spostarci insieme, oppure come ad esempio con gli Underdogs abbiamo effettuato una sera un pezzo insieme per un'occasione speciale che ci eravamo preparato. È stato molto bello suonare in 5 invece che in 3, diciamo. Beh, insomma, bene anche la parte positiva della cosa. Non potevamo che chiudere in bellezza con i Black Sabbath, dal disco Master of Reality del 1971, la grande cavalcata musicale Children of the Grave. Dopo ascolteremo 6 brani dal disco dei Maya Mountains.